Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A questo seguirono numerosi racconti di altre affascinanti avventure che io e la collega ascoltavamo a bocca aperta, sebbene qualche volta ci sembrava mal si conciliassero con la vita tranquilla e abitudinaria di questa persona. Io sono Mimma, vivo a Prato, ho due figli, un nipotino, una nipotina in arrivo e un gatto. Lavoro in un'agenzia di pubblicità e ho una marea di interessi. Giugno 1970, Mondiali del Messico. L'Italia impazziva per gli azzurri, anche se fino a quel punto non avevamo propriamente brillato. I ragazzini sapevano a memoria le formazioni e i calendari delle partite ed entusiasti agitavano bandiere per le strade. Io avevo 9 anni, ma di tutto questo non sapevo niente. Io stavo in Libia con la mia famiglia, mamma, nonni, zii e cugini, tutti con la trepidazione di essere da un momento all'altro cacciati dalla terra dove avevamo fino a quel punto vissuto. Questa è una delle storie che ci è arrivata a firma di Giuseppe, che riguardano i mondiali e che con tutta probabilità diventerà una puntata dei primi giorni di luglio. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. Ogni giorno raccontiamo una storia diversa, ma per il mese di luglio, mese nel quale abitualmente non eravamo in onda, e invece mese che occuperemo quasi militarmente anche quest'anno con delle storie nuove, nella prima settimana del mese di luglio racconteremo le vostre storie legate ai mondiali. I mondiali scandiscono la vita delle persone che li seguono, un po' anche di quelle che non li seguono, perché in qualche modo gli entrano addosso, perché c'hanno persone, perché le città si fermano, perché si svuotano durante le partite, soprattutto quelle più importanti. Quindi se avete una storia particolare legata a una partita di un mondiale, a un evento, a un luogo in cui vi trovavate, beh, la storia di Giuseppe è straordinaria e poi la sentirete ai primi di luglio, perché riguarda la sua famiglia in Libia e quello che succede là, in contemporanea proprio di quell'estate, il 1970. Se però avete una storia che per forza non prevede una migrazione dal vostro paese verso un altro, voi siete qui, chiocciola Radio24.it, storie legate ai mondiali di calcio, a una partita e ad un evento che in qualche modo vi ha riguardato. Torniamo a noi, torniamo alla storia di oggi. Oggi raccontiamo la storia di Mimma, che cita un personaggio che potrebbe ricordare Salgari. Sapete che Salgari ha animato la fantasia di non so quanti bambini, non so di quante generazioni di bambine, di bambini, attraverso Sandokan, attraverso questi luoghi pazzeschi di cui raccontava con grande maestria e soprattutto con grande nitidezza di dettagli, e lo ha fatto tutto standosene sostanzialmente in Nord Italia, tra Verona e Torino. Ecco, la storia che stiamo raccontando è di Mimma, ma riguarda un suo collega che raccontava storie incredibili, che dipende un po' da come le guardi, perché da un certo punto di vista possono essere delle storie meravigliose, dalle altre potrebbe essere un bombarolo, cioè uno che spara delle bombe, si dice dalle mie parti, non so come si dice a Senigallia, uno che racconta palle, Paolino, uno che racconta un pallonaro, un cazzaro, insomma uno che le spara grosse. Va bene, dai, tiriamo giù la guardia, ammettiamolo, quella volta l'ho sparata veramente grossa, e che tipo di bomba era? 349 238 6666. Che palla incredibile avete raccontato, dove vi trovavate, a chi l'avete raccontata e soprattutto che cosa riguardava? 349 238 6666. In fondo siamo tutti un po' Salgari. Hanno un fascino irresistibile per me le storie. Starei ore ad ascoltarne, senza per questo stancarmi mai. Ho una predilezione per le storie di tempi passati che non ho mai conosciuto, come quelle che la nonna mi raccontava nelle sue notti insonne. Ma ancora di più amo le storie di avventure vissute in paesi lontani e che chissà, forse non vedrò mai. Questa potrebbe essere la ragione per cui mi ritrovai a vivere l'esperienza che qui narro. Dunque, conobbi Carlo in occasione della mia presentazione allo staff dell'azienda con la quale lui collaborava da qualche anno. Di aspetto più che insignificante e per di più sacrificato anche da una statura non certo ragguardevole, si salvava solo lo sguardo acuto e intelligente. Per me insignificante voleva dire che non attirava in nessun modo l'attenzione, vuoi per i lineamenti, per l'altezza, per il modo di fare. il fatto che fosse interessante si scopriva solo parlandoci, in sostanza, avendo a che fare con lui, insomma, perché indubbiamente poi era una persona anche molto molto gradevole. La grande presenza di spirito, la capacità non comune all'autoironia e una notevole dialettica erano tuttavia il modo per cui, come ebbi presto modo di scoprire, altre persone dell'entourage erano affascinate quanto me da questo curioso personaggio. Insieme ad un'altra giovane collega prendemmo l'abitudine di ritrovarci con lui per pranzo, e ogni volta era uno spasso per il susseguirsi delle sue battute sugli argomenti più disparati, che avevano talvolta per oggetto l'amore morboso per lui della vecchia madre, con la quale conviveva ancora. Le narrazioni delle avventure vissute nei suoi innumerevoli viaggi erano però le sue preferite. Cosa molto gradita anche a noi, che lo ascoltavamo con interesse, sia per la varietà dei luoghi che per la dovizia di particolari con la quale arricchiva i suoi racconti. Il viaggio sui ghiacci eterni del Polo Nord, con la descrizione del difficile e faticoso cammino per raggiungere la meta, fu una delle prime storie che ci raccontò. E Marta e io gioimmo insieme a lui, quasi avessimo superato insieme le difficoltà incontrate. Quando ci disse infine del fortunato rinvenimento di un minuscolo insetto, disse anche il nome in latino ma non lo ricordo, che tutti consideravano estinto e che andava ad arricchire il suo bagaglio di conoscenze nel campo della fauna terrestre, beh, lì fummo felicissime. Per giorni pensai alla peculiarità di questo animaletto, che come Carlo ci aveva raccontato poteva vivere solo al clima rigidissimo di quel posto e che sarebbe bastato tenerlo qualche minuto chiuso nel palmo della mano per procurargli la morte per surriscaldamento. L'inospitale deserto africano era il teatro di un'altra avventura. Quando ci raccontò del suo viaggio insieme ad un amico antropologo che andava sul posto per studiare alcune tribù indigene. Ricordo ancora le nostre espressioni di disgusto allorché ci disse di come erano dovuti sopravvivere alla penuria di cibo, nutrendosi con le gallette rimaste loro sulle quali strofinavano le pingui formiche mellifere, vera leccornia degli abitanti del luogo. A questo seguirono numerosi racconti di altre affascinanti avventure che io e la collega ascoltavamo a bocca aperta, sebbene qualche volta ci sembrava mal si conciliassero con la vita tranquilla e abitudinaria di questa persona. Mentre prendevamo il caffè veniva fuori che lui ci raccontava queste storie che a noi piacevano tantissimo, insomma, e che se, come ho poi scoperto, erano effettivamente inventate, erano molto ben architettate, diciamo così, perché ecco, erano gradevoli poi, insomma, noi le ascoltavamo con grande piacere. Con le nostre espressioni evidentemente perplesse, rischiamo quasi di offenderlo quando l'ultima volta che lo incontrammo prima del suo trasferimento ci raccontò della sua visita su un luogo di battaglia degli antichi greci, dove disse di essere stato pervaso da un'inspiegabile sensazione di inquietudine, tanto da doverne scappare a gambe levate. Dopo una pausa, incalzato dalle nostre domande, ci spiegò di avere una sola spiegazione a questo fenomeno. Lui credeva nella possibilità che i morti hanno di vivere una seconda vita e lui, sicuramente, altri non era che la reincarnazione del comandante dell'esercito, il quale in quel campo aveva combattuto e lì aveva perso la vita. Qualche sospetto che le storie ascoltate dal nostro bizzarro amico non fossero totalmente vere, lo avevamo già avuto. Accadde quando qualcuno che lo conosceva bene ci confermò di non averlo mai visto lasciare neanche per un giorno il paese dove era nato. Dov'è andamento, signora del tempo, donna da scadenza. O avesso da modestia entrega-se ao vento. Un anno fa circa sono stato negli Stati Uniti per vedere lo spettacolo del mio comico preferito. A dire la verità, ho organizzato il viaggio intorno a quella serata che si teneva a Boston durante una lunghissima tournée in giro per gli Stati Uniti di Louis C.K. Vi ho già parlato di lui più di una volta. Purtroppo in Italia non è molto conosciuto, ma fa molto ridere. E lo fa senza fare battute, senza fare gag, ma semplicemente raccontando delle storie. Una delle storie più divertenti di questo spettacolo la racconta più o meno a metà del suo pezzo. Dunque, lui dice, si trova nel cortile del suo condominio nel centro di New York, che non si vergogna a dire essere molto lussuoso, dal momento che da quando ha successo si può permettere cose che prima non era in grado nemmeno di guardare. Insomma, è nel cortile del suo palazzo ed è vestito male, quando vede nell'ingresso un tizio, un inquilino del palazzo, elegante, azzimato, che lo guarda strano. Lui subito pensa che tra poco quel tizio andrà lì a disturbarlo perché non lo conosce. E infatti lo vede che gli si avvicina. Quando si trova a pochi metri da lui, lo guarda e gli chiede: «Mi scusi, lei abita qui?» E Louis C.K., gustandosi la sua possibile ira, gli risponde candidamente: «No». Il tizio va su tutte le furie e gli dice che quella è una proprietà privata. E lui rincara la dose dicendo che: «Sai cosa, non credo proprio nel concetto di proprietà privata». Quello allora torna verso l'ingresso, chiama il portiere, gli indica questo tizio che sembra entrato per caso nel palazzo. Il portiere lo guarda e risponde: «Ah no, tranquillo, ma lui abita qui». Insomma, Louis C.K. dice che questa cosa l'ha fatto godere molto, perché era come se avesse trovato un nuovo modo, un po' sadico, per ferire sottilmente i sentimenti di una persona. Questa storia durerà circa 5 minuti, forse anche meno. Il pubblico ride un po', si stupisce, ma si diverte, ovviamente insieme a loro. Poi lui fa una pausa, raggiunge uno sgabello dove ha appoggiato un bicchiere d'acqua, beve un sorso e quasi a mezza bocca dice: «Non è proprio tutta vera questa storia». Noi in platea non capiamo, lui beve un altro goccio d'acqua e dice: «Sì, è vero, ero nel cortile del mio palazzo quella mattina e ho visto questo tizio elegante all'ingresso. Poi però il dialogo con lui che si arrabbia e io gli rispondo come un gran figo per umiliarlo, ecco, quello lì me lo sono solo fatto nella mia testa. Sì, nella realtà lui è venuto verso di me, si è presentato e mi ha detto: «Buongiorno, mi chiamo George, benvenuto nel palazzo. Vi giuro, si chiama George, uno dei miei inquilini preferiti, anzi lo saluto, ciao George». Insomma, quando ha finito questo pezzo, non so perché, ma quando ha rivelato che quella storia non era vera, tutto quanto mi ha divertito ancora di più. E credo che sia dovuto al fatto che una cosa che accade davvero è solo reale. Una cosa che succede nella testa di una persona può diventare qualsiasi cosa. Bellissima foto, cioè, o meglio, è una bellissima donna Mimma nella foto che ci ha mandato e che trovate come sempre sul nostro sito radio24.it alla pagina di Voi Siete Qui. Ha dei capelli a caschetto, credo si dica a caschetto, forse c'è qualcosa di più complicato che sfugge a un uomo, ha la testa leggermente piegata, i capelli le ricadono davanti, ha degli occhi chiarissimi e la foto è talmente bella che sembra quasi fatta da un fotografo. Pronto Mimma? Ciao caro. Come stai? Ciao Matteo. Bene, grazie. Sì, bastano. Si tira avanti. Bastano due parole per riconoscere subito lo splendido accento toscano, Mimma. Basta proprio pochissimo. Non riesco a nasconderlo, in verità. Di Prato sei tu, giusto? Sì, esattamente. Ma sei nata a Prato oppure? No, io sono di origini romane e poi, diciamo, gli eventi mi hanno portato in Toscana ormai da tanti anni, per cui mi sento a tutti gli effetti pratese, insomma. Senti, tu lavori ancora? A parte che, insomma, dalla foto sei una bambina praticamente, Mimma. Ora, non esageriamo, perché comunque ho i miei anni, non ti dico quanti, ma comunque... No, non li voglio sapere, infatti, però insomma, diciamo, la domanda è più che altro: lavori ancora, sei sempre attiva? Sì, come no, certamente, con grande entusiasmo, peraltro. Lavoro con un'agenzia di pubblicità. Ah, e cosa fai esattamente per loro? Senti, faccio quello che, diciamo, viene definito l'account. Ah, ok, ci hai girato intorno, insomma, sei un account. Sì, è un account che in sostanza ho il contatto con la clientela, quindi tengo il contatto tra la clientela e l'agenzia. Che, insomma, per chi non lo sapesse, l'account non è un lavoro facilissimo, no? Perché tu sei in mezzo tra i creativi che sono un po' artisti, adesso la dico male, la dico proprio super stereotipata, i creativi che: «No, quella roba va fatta così, altrimenti io non la firmo!» E dall'altra parte invece il cliente che dice: «No, sta roba qua non va bene, io pago, voglio che ci sia il mio marchio, eccetera, eccetera». Più o meno è ancora così. Esattamente, bisogna avere, diciamo, un po' delle capacità di negoziazione in qualche modo, bisogna sapere un po' tenere diciamo i contatti in maniera soddisfacente da entrambe le parti, insomma, da parte dell'agenzia che comunque propone e da parte del cliente che ha delle esigenze che vanno rispettate. Mi puoi dire, ad esempio, senza citare il nome, tipo un cliente che cosa fa, o il tuo cliente più importante, che so io, fa spine elettriche, per la roba per la corrente elettrica, cibo? No, uno dei miei clienti più importanti fa consulenza. Ok, aziendale, immagino, o... Esatto, fa consulenza aziendale, ma anche, cioè, fa una serie di servizi, è comunque un'azienda che ha una serie di servizi all'interno. E poi, se no, lavoriamo molto, chiaramente, anche essendo su Prato, molto anche col tessile, quindi con aziende che, diciamo, orbitano nell'ambito del tessile. Senti, perdonami la domanda, ma immagino che chiunque, o perlomeno molte persone, se lo stiano domandando, lavorate anche con dei cinesi oppure loro continuano a fare le robe? Ma va? Negli anni passati molto di più, in verità, ma adesso si sono molto attrezzati anche loro e diciamo che... Come spesso succede, insomma, quando si ha a che fare con questa, diciamo, con questo tipo di etnia, loro si organizzano dopo un po' di anni anche per conto loro, e si fanno anche tutto. Se devo dire che la nostra creatività poi la fa da padrone, perché c'è poco da fare, insomma, possono realizzare i mezzi, intendo i mezzi pubblicitari, ma poi la creatività ci vuole la nostra. E devo dire che la tua storia lo dimostra, Mimma, perché insomma le storie di questo amico o collega che sia sono storie incredibili. Sì, lo sono. Ma sono incredibili nel senso che comunque sono piacevoli da ascoltare, no? Tutto sommato la tua storia risponde a una domanda che spesso mi fanno le persone, che è, vabbè, molti mi chiedono, ma le storie che racconti sono tutte vere? Dico, guarda, me le mandano gli ascoltatori, per cui noi diamo per scontato che lo siano, ma poi spesso quando per altri lavori che ho fatto, ma era vera o non era vera? E un po' mi dico, boh, ma forse non è importante, cioè se quella storia lì, come succede a voi, no? A voi ti intrattiene e ti porta da un'altra parte... Un po' anche perché chi no. Se ne frega, no? Infatti. Senti, no, cioè, no. È una cosa che fa abitualmente, gli piace raccontare abitualmente, oppure, cioè, lo frequenti ancora, lo vedi ancora? No, non lo vedo da tantissimi anni, okay. Ma ecco, è stata una frequentazione di forse so un paio d'anni, ma una frequentazione assolutamente piacevole, proprio in virtù del fatto che era una persona estremamente gradevole come persona e poi aveva questi racconti che, come ti ho detto e come cito nella storia, insomma, a me piace ascoltare... Le storie. Sì, ma un po' alla Salgari, insomma, che non si era mai mosso da casa sua, eppure raccontava dalla Tigre di Monprachem in giù. Poi devo dire, la mia preferita della tua storia è il viaggio sui ghiacci eterni del Polo Nord. Sì. Lì vince su tutti. È vero, perché è spesso vero. Le bombe così grosse, se non sono dette per trarre beneficio, per trarre vantaggio da qualcosa, da qualcuno, alla fine, appunto, sono solo delle storie. Mimma, senti, io ti invito formalmente al live di Voi Siete Qui a venire alla serata a sentirti le storie. Immagino che da Prato sia un po' scomodo venire fino a Milano. Ma tu faccelo lo stesso comunque. Va bene. Mimma, ti ringrazio ancora per la storia e per la chiacchierata. Io ringrazio te. Ciao, a presto. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Secondo me, dai messaggi che sono arrivati nel frattempo, di balle enormi raccontate, vince Max da Firenze. Sabato ho detto a mia figlia di 4 anni che alla Coop avevo incontrato dei Winx. Facevano la spesa perché andavano a Marina di Cecina in camper. Perché sono i dettagli, ma andavano a Marina di Cecina in camper. Visto che abbiamo parlato del live, lo facciamo ormai tutti i giorni, vi assicuro che a brevissimo, cioè probabilmente dalle 17 in avanti, sarà online sul nostro sito www.radio24.it. La nostra pagina Voi Siete Qui, il form, la pagina per potersi iscrivere, ricordo sempre gratuitamente, al live. Quello che succede è che lo dovete compilare, cliccate invio, vi arriva immediatamente una mail al vostro indirizzo email che voi stampate, firmate e portate qui la sera del 26 giugno alle 21:30. A breve, al primo che si iscrive non succede niente, è semplicemente il primo che si iscrive. Tra pochissimo online radio24.it per iscriversi al live. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Grazie soprattutto a Mimma, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Roberto, vivo a Milano. La storia di domani è la mia e parla del tempo di guerra. Questa è la mia storia e io sono qui.